Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. A voi tutti, cari ascoltatori, un saluto affettuoso da parte di Gesi e di Antonio. Eccoci qua, Antonio. Ormai siamo alla metà di marzo, si è passato il carnevale, si è passato tutto. Va. Tempus fugit. Siamo sempre, siamo ancora in quaresima. Esatto. Bene. Allora, diamoci. Sì. Fai tu? Sì, naturalmente. Un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Citiamo il nostro indirizzo internet, che è bluradioveneto.it, il numero di telefono per sms, consigli, proposte, critiche e quant'altro, che è il 346 23 20 033. Ricordiamo che è anche possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione. E non dimentichiamo un saluto al nostro regista, al nostro coordinatore. Certo, un saluto anche a loro, anzi, un saluto affettuoso anche a loro. Certamente. Stasera avremo un ospite in studio, non virtuale come tanto. E prima ci ascoltiamo una canzone e poi lo presenteremo e si presenterà. Intanto salutiamo il nostro ospite, appunto, che è il signor Giancarlo Zizzola. Buonasera. Buonasera. E salutiamo anche la sua signora che è qui seduta, che ascolta. Bene, ascoltiamo la prima canzone, che è cantata da Gianna Nannini ed è intitolata con Edoardo Bennato, mi dimenticavo del povero Edoardo. Vabbè, è intitolata Notti Magiche. Le regole del gioco, ma voglio viverla così, questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori, accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo con sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere, un'estate, un'avventura di più. Quel sogno che comincia da bambino sempre più lontano, non è una favola, è dagli spogliatoi escono i ragazzi e siamo noi. Sotto il cielo di un'estate. Ed eccoci di nuovo in studio con il nostro signor Carlo G. Zizzola. Signor Giancarlo, a lei la parola, si presenti un pochino, chi è e da dove viene, che cosa fa nella vita, tutte queste belle cose. Grazie. Allora, iniziamo intanto col precisare questo nome Carlo G. Zizzola, che Carlo G. è uno pseudonimo che ho adottato quando ho cominciato a scrivere qualche anno fa, è dovuto a un problema di omonimia con un mio parente, con il giornalista Giancarlo Zizzola di Roma, giornalista vaticanista scomparso purtroppo l'anno scorso, e quindi ho ritenuto opportuno cambiare, seppur di poco, il nome. Carlo G. Zizzola. Per quanto riguarda la mia vita, presto detto, è scritta a capitoli. Il primo capitolo, la gioventù, nel primo capitolo diciamo, c'è il periodo scolastico universitario. Mi sono laureato in sociologia a Trento negli anni caldi, poi ho cambiato completamente indirizzo, lavorando per una trentina d'anni nell'azienda di scarpe di famiglia, e azienda che ho venduto una decina di anni fa, e da quel momento la mia attività si è suddivisa tra la mia passione, cioè la scrittura oltre che la lettura, e attività varie. Attualmente mi occupo di impianti fotovoltaici. Prima accennavo la mia passione, la scrittura, che si divide in poesia e prosa. Scusi, in che anno ha cominciato a scrivere, un pressapoco? Ho cominciato, così, un po' per scherzo, verso la fine del secolo scorso. Poi a un certo punto ho detto no, devo fare le cose seriamente, e allora ho cominciato a documentarmi, ho partecipato a dei corsi di scrittura e a dedicare anche molto tempo anche alla ricerca, ed eccomi qui. E ci siamo dimenticati di dire che lei è stato qui ancora nell'autunno scorso. Abbiamo letto delle sue poesie, abbiamo letto anche un racconto suo, Il fantasma del lago nero, e lei stasera mi diceva appunto che questi racconti della montagna, cos'è, una trilogia in sostanza, no? Sì, ho scritto tre racconti, Il fantasma del lago nero, L'uomo del bastone e l'ultimo, Il segreto di Ingrid. Sono tutti ambientati in Val di Casillies, dove da molti anni trascorro assieme a mia moglie le vacanze. È un luogo ameno che mi è sempre piaciuto molto e che appunto mi ha ispirato a questi racconti. Bene, allora adesso incominciamo a leggere il racconto e poi riparleremo ancora con lei, perché ho ancora qualcosina da chiederle, sa? Allora, il racconto si intitola di Carlo G. Zizzola, L'uomo del bastone. Dopo le chiederò perché, come è nato questo racconto, ma intanto cominciamo a leggerlo. Perché non me lo vendi? Questo no, è mio. E non lo cedo per nessun motivo. Non ce ne sono tanti altri. Scegli tra quelli. Nessuno è così ben riuscito. Fammene uno uguale almeno. Non è possibile rifare le stesse decorazioni. E perché? L'uomo al quale era stata posta quella domanda tacque indeciso. Poi disse: il motivo non posso spiegartelo. Sepp Kreuzer, seduto su una panca di fronte al suo rifugio situato a poca distanza dal sentiero che da Santa Maddalena in Val di Casillies conduce alla Stumpfalm, guardava le creste delle Dolomiti sfumarsi in una foschia leggera. Appoggiati su un tavolo c'erano due boccali. Il suo aveva ancora un po' di birra. Giovanni se n'era andato da più di un quarto d'ora. Lui era rimasto a ricordare l'insistenza di quel villeggiante trevigiano che da alcuni giorni gli chiedeva di vendergli il suo bastone. Era sicuro che pur di averlo sarebbe stato disposto a pagare anche il doppio. Lo aveva fatto alcuni anni prima e fra tutti era quello che gli aveva richiesto più lavoro. Tra le venature e i nodi che si distribuivano in modo irregolare per quasi 1,5 metri, c'era qualcosa di particolare che un occhio attento avrebbe potuto cogliere. Udì sua moglie che gli chiedeva di rientrare. Lo fece malvolentieri perché avevano trascorso l'intera giornata senza rivolgersi una parola. Quando la raggiunse stava discutendo con un uomo che rigirava tra le mani una statua in legno. Questo signore vorrebbe comprarla, ma vuole spendere poco. Allora non se ne fa niente, rispose senza degnare ad uno sguardo la moglie né il possibile acquirente. Appoggiatosi al banco riempì un grosso bicchiere di birra. Erika continuò la trattativa e riuscì a vendere un prezzo un po' più alto di quello che le avevano offerto. Perché mi hai chiamato se poi fai di testa tua? Io non l'avrei mai venduta per così poco, l'apostrofò quando rimasero soli. Forse per te non venderemo niente. E poi le statue non le fai più bene come una volta. Ribatté stizzita la moglie. Si può sapere cosa ti sta accadendo? Lavori 2 o 3 ore al giorno e poi passi il resto del tempo a parlare e bere con chi ti pare. Chi deve sgobbare qui sono io. Se non avessi Inge, potremmo chiudere. Hai fatto male. Lo guardò incuriosita. Cosa intendi dire? Che hai fatto male a sposarmi, rispose Zepp dopo aver bevuto alcuni sorsi. Bella scoperta. Pensi che non l'abbia capito? Gli prese il bicchiere. E smettila di bere quando parli con me. Dimmi, perché mi hai sposato? Insisté l'uomo. Hai bevuto troppo? Ecco cosa hai fatto con quel tuo amico italiano. Se viene qui solo per farti perdere tempo, può starsene a casa o dove vuole. No, non ho bevuto troppo, non più di tanto. Una luce cattiva si accese negli occhi di Zepp. Voglio che tu mi risponda. Erika si avvicinò fino ad accostare il suo volto a quello del marito. Cosa vuoi che ti dica? Che ti ho sposato perché eri l'uomo più bello della valle, il più affascinante, quello che poteva offrirmi il futuro migliore? Oppure la verità? La verità la conosco, però voglio che tu me la ripeta ancora. E qui ci fermiamo. Ci fermiamo per una canzone. Allora, la seconda canzone in programma è cantata da Gianni Togni, Luna. E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', passo le notti a camminare dentro un metrò, sembro uscito da un romanzo giallo, ma cambierò, sì cambierò. Gettano arance da un balcone, così non va, tiro tre calci ad un pallone e poi chissà, non sono ancora diventato matto, qualcosa farò, ma adesso no. Luna! Luna, non mostri solamente la tua parte migliore, stai benissimo da sola, sai cos'è l'amore e credi solo nelle stelle, mangi troppe caramelle. Luna, Luna, ti ho vista dappertutto, anche in fondo al mare, ma io lo so che dopo un po' ti stanchi di girare, restiamo insieme questa notte, mi hai detto no per troppe volte, Luna. E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', se sono triste mi travesto come Pierrot, poi salgo sopra i tetti e grido al vento, guarda che anch'io ho fatto appunti con Dio. Ho 1000 libri sotto il letto, non leggo più, ho 1000 sogni in un cassetto, non lo apro più, parlo da solo e mi confondo e penso che in fondo sì, sto bene così. Luna! Luna, tu parli solamente a chi è innamorato, chissà quante canzoni ti hanno già dedicato, ma io non sono come gli altri, perché ho progetti più importanti. Luna, luna non essere arrabbiata, dai non fare la scema, il mondo è piccolo se visto da un'altalena, sei troppo bella per sbagliare, solo tu mi sai capire, Luna. E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', a mezzanotte puoi trovarmi vicino a un jukebox, poi sopra i muri scrivo in latino, evviva le donne, evviva il buon vino. Son pieno di contraddizioni, che male c'è, adoro le complicazioni, fanno per me, non metterò la testa a posto, mai a maggio vedrai che mi sposerai. Il giorno successivo, dopo aver litigato ancora con Erika, trascorse il pomeriggio continuando a bere birra. Verso le 5 vide un piccolo gruppo avvicinarsi al rifugio. C'era anche Giovanni. Non aveva nessuna voglia di incontrarlo. Sarebbe stato capacissimo di chiedergli ancora di poter acquistare quel dannato bastone, come se volesse logorarlo, indurlo a cederglielo pur di togliersi un seccatore d'intorno. No, non l'avrebbe mai venduto o regalato a nessuno. A volte lo prendeva in mano e lo osservava. Il giorno prima aveva provato un impulso quasi irresistibile di eliminare alcune decorazioni. Appena appoggiata la lama, con un gesto di rabbia aveva scagliato a terra il coltello. Per non incontrare l'italiano si rifugiò nel piccolo laboratorio retrostante. Non che non gli piacesse, anzi, in 2 settimane avevano approfondito la loro conoscenza con buone bevute, durante le quali si erano scambiati reciproche confidenze. Però quella reiterata volontà di sottrargli qualcosa che poteva appartenere solo a lui lo infastidiva. Ingannò l'attesa rifinendo l'ultima scultura. Gli era riuscita bene. Quando l'avesse vista, Erika sarebbe stata costretta a rimangiarsi commenti umilianti. La porta si aprì con un cigolio e una figura altrettanto massiccia si stagliò contro la luce. «Tua moglie mi ha detto di cercarti qui. Cosa stai facendo?» chiese Giovanni. «Non lo vedi?» Il villeggiante capì che non era arrivato nel momento migliore. «Se ti disturbo, me ne vado!» Sepp gli indicò uno sgabello. «Siediti, non ho più voglia di lavorare. Vuoi una birra?» «Ti sembra una domanda da farmi? Allora te ne farò assaggiare una artigianale tedesca. Ho nascosto un piccolo frigo e una riserva. Erika non lo sospetta nemmeno.» «Hai litigato ancora?» «Perché me lo chiedi?» «Ho visto la sua faccia. Io vorrei vederla il meno possibile, invece me la ritrovo davanti ogni giorno.» «Non dovevi vendere il bar a San Martino. Se lo avessi ancora, potresti restartene giù in paese lasciando lei qui. Oppure il contrario. In ogni caso, vivresti più tranquillo.» «Ho dovuto farlo. Avevo bisogno di soldi.» Sepp fece un mezzo sorriso, scuotendo la testa. «Mi chiedo ancora perché l'abbia sposata. Soprattutto dopo...» «Dopo?» ripeté l'altro incuriosito. «Che mi aveva lasciato per sposare Peter.» Aveva cominciato a lavorare nel bar a 20 anni. Era una ragazza di media statura, con lunghi capelli corvini che incorniciavano un volto dagli zigomi un po' sporgenti. Il naso e la bocca erano regolari. Un'ombra avvolgeva gli occhi scuri. All'inizio il giovane Kreiser era stato poco gentile, quasi sgarbato, ma lei non era mai sembrata infastidita da quell'atteggiamento. Lo aveva sopportato in silenzio. Un'estate, verso fine giugno, la madre aveva ordinato a Sepp di occuparsi del rifugio. Lo avrebbe aiutato Erika. Ben presto il giovane aveva cominciato a guardarla in modo diverso. Se n'era pazzamente invaghito e lei era parsa a ricambiare. Non avrebbe più dimenticato quei mesi trascorsi assieme. Per la prima volta nella sua vita si era sentito un uomo felice. Era stata una felicità breve. Dopo circa un anno, Erika gli aveva detto d'essersi innamorata di Peter e per tale motivo se n'era andata. Gli era parso di precipitare in un incubo. Quello che riteneva pur sempre un amico era entrato ancora nella sua vita per sconquassarla. Non si era accorto degli sguardi tra lui e la sua donna quando si incontravano, e tutto gli era piovuto addosso con l'ineluttabilità del destino. Una volta di più si era chiesto cosa avesse di speciale Peter Aurich. Era migliore di lui. In ogni caso, non aveva potuto far nulla, soprattutto impedire a Erika di amare un altro uomo. Per puro orgoglio aveva nascosto il suo dolore, come se di quella storia non gliene importasse più nulla, e aveva ripreso la vita di sempre. Dopo un breve fidanzamento, Erika e il suo nuovo compagno si erano sposati, ma il loro matrimonio era durato solo pochi anni. All'inizio del quarto anno, Peter era morto. Giovanni aveva ascoltato bevendo birra mielata. «Scusa», disse alla fine, «ma è una storia come tante. Non sei il primo a viverla. La donna è mobile, no?» «Peggio è infida», rimarcò Zepp. «In ogni caso, quello che non capisco è perché tu l'abbia sposata. Te ne eri innamorato di nuovo?» Senza attendere la risposta, l'italiano aggiunse: «Secondo me non avevi mai smesso di amarla, anzi, di volerla, che è cosa ben diversa. Forse hai ragione, ma per farti capire cosa ho provato in quei giorni e negli anni successivi, dovrei raccontarti tutto e non so se ne ho voglia. Prova. Non so neanche da dove cominciare. Da quello che ti sembra più importante». «Più importante?» ripeté Zepp come se stesse meditando su quelle parole. «È tutto maledettamente importante. A cominciare da quell'incontro all'apparenza casuale con Erika, un anno dopo la scomparsa di Peter, durante il quale ci scambiamo solo poche parole. In ogni caso, sufficienti a farmi comprendere che quella donna la volevo ancora. Però mi chiedevo, come posso desiderarla dopo che mi ha ingannato, tradito?» Feci tacere il mio orgoglio, attribuendo tutta la colpa a Peter. Lui l'aveva circuita, lei era stata solo debole. Poco tempo dopo le domandai di uscire assieme. Riprendemmo a frequentarci e mi sembrò che tutto potesse ritornare come durante quell'estate, trascorsa assieme nel rifugio. «Ma lei perché ha accettato di sposarti?» chiese Giovanni. «Scusa, forse è una domanda rude». «Sì, ma mi fa piacere che tu me l'abbia posta. Così capirai chi è Erika Steiger», rispose Zepp con sarcasmo. «Mi ha sposato perché aveva bisogno di soldi. Peter, a causa di speculazioni sbagliate, era stato costretto a ipotecare la casa. Ecco l'unico vero motivo del grande amore di Erika per Zepp Kreuzer», concluse con un gesto teatrale. Giovanni rimase in silenzio. «Non dovrei bere più», disse poi, vedendolo aprire un'altra bottiglia, «ma questo leggero sapore di miele mi piace troppo». Bevvero il terzo boccale. «Non mi hai ancora detto come è morto Peter?» Un tremito scosse il corpo di Zepp. Gli ci volle un po' di tempo per riprendersi. «Vuoi proprio saperlo?» «Sì, non so bene perché, ma lo ritengo importante e credo che tu, ora, debba proprio dirmelo». Bene, ci fermiamo un altro momento per un'altra canzone. Allora, da Julio Iglesias ascoltiamo Solamente una vez. Solamente una vez, amé la vida. Solamente una vez y nada más. Solamente una vez en mi huerto brilló la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renuncia. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campos campanas de fiesta que cantan en el corazón. Solamente una vez en mi huerto brilló la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Ecco, torniamo in studio e riprendiamo la nostra lettura. Alcuni mesi dopo il matrimonio di Erika, Zepp, proprio per dimostrare che di quella donna non gliene importava più nulla, aveva invitato il marito a fare escursioni e scalate assieme. Lui era stato felice di riprendere le antiche abitudini e per alcuni anni si erano avventurati sulle montagne che circondavano la valle. L'estate in cui Peter morì era stata molto piovosa. Avevano dovuto rinunciare a diverse uscite. Un giorno, quasi esasperati, erano partiti nonostante il cielo fosse minaccioso. Non avevano scelto un percorso difficile, ma il terreno era intriso d'acqua. Mentre stavano percorrendo un sentiero esposto, Zepp aveva udito alle sue spalle il rumore di pietre e sassi che precipitavano e l'imprecazione del compagno. Lo aveva visto una decina di metri più in basso, aggrappato a una roccia con i piedi infilati in un piccolo appoggio che stava cercando di allargarlo. «Peter, ti sei fatto male?» «Ho preso un brutto colpo al ginocchio. Una mano mi sanguina. Non credo di poter risalire da solo, anche perché se mi muovo qui frana tutto. Ci vorrebbe una corda, invece ho solo il mio bastone. Può andar bene anche quello. Cerca di scendere più che puoi e di allungarmelo». Zepp aveva osservato il terreno per trovare appoggi sicuri. Aveva paura. Un tratto del sentiero era quasi scomparso. Sceso di pochi passi, aveva proteso il bastone verso la mano di Peter. Due metri per raggiungerla. «Devi scendere di più, io non riesco a salire. Se scendo ancora non ho più nulla a cui aggrapparmi. E rischio di precipitare», aveva risposto. «Devi scendere, scendi di più», aveva urlato ancora Peter allungando disperatamente una mano. «Ma non ce la faccio, è impossibile. Allunga quel maledetto bastone, allungalo!» Il terreno stava cedendo nuovamente e una sensazione orrenda aveva invaso la mente di Zepp. Usando il bastone come appoggio, si era lanciato verso un appiglio nella parete ancora sicura del sentiero ed era rimasto sdraiato a terra per alcuni minuti con la paura di guardare verso valle. Quando lo aveva fatto, si era accorto che dietro di lui non c'era più nulla. Era di Peter, il grido che aveva sentito confuso nel rumore di una nuova frana. «Adesso capisci perché non ho mai voluto, anzi potuto, venderlo». Zepp era in piedi vicino alla finestra. Per tutto il tempo del racconto aveva guardato verso le montagne come se parlasse con se stesso. Prese il bastone e lo porse a Giovanni dicendogli: «Osservalo bene». Questi lo afferrò incuriosito. «Non lo avrei mai immaginato», hai riprodotto la scena. Sul legno abilmente lavorato si notavano alcune figure stilizzate. Una mano protesa verso un'altra che impugnava un bastone, un volto, delle forme che potevano assomigliare a pietre e sassi sparse verso la punta. E una lettera. Era una P. «Sì, ho riprodotto la scena», ripete Zepp. «Con tutti ho sempre sostenuto che Peter era precipitato subito a causa del cedimento del sentiero. Non avevo potuto far nulla. Io mi ero salvato per miracolo. Col tempo avvertii sempre più il bisogno di confidarmi. Ma con chi? No, non potevo farlo con nessuno. Allora, come se volessi affidargli un segreto, ripulii il mio bastone dalle precedenti decorazioni e incisi quello che era accaduto. Non guardarmi così, non sono pazzo. Perché a me hai raccontato tutto? Non lo so, forse perché avevo bisogno proprio di farlo. Tu sei solo un compagno di bevute dal quale non ho nulla da temere. Forse perché siamo simili. Credo sia proprio così, confermò Giovanni. In ogni caso, quanto è accaduto meriterebbe di essere discusso a lungo. Non l'avrei mai immaginato, anche se l'attaccamento che hai sempre dimostrato mi lasciava supporre qualcosa, perlomeno una storia strana. Ora è tutto chiaro. Non aggiunse altro. A entrambi sarebbe parso inutile, anzi inopportuno. Guardò l'orologio. Mi dispiace, si è fatto tardi, devo proprio andare. Avremo modo di parlare un'altra volta. No, non ne riparleremo mai più, fu la secca risposta di Zepp. Dopo un attimo di esitazione indicò il bastone che Giovanni teneva ancora in mano. Mi hai sempre detto che è quello che ti piace di più. Te lo regalo, è tuo. Me lo regali? Pensavo fosse un oggetto dal quale non ti saresti mai separato. Ora non ho più nessun motivo di tenerlo. Ho capito, vuoi liberartene, dimenticare. Ho sempre pensato di essere responsabile della morte di Peter. Mi sentivo in colpa anche verso Erika, nonostante fosse assurdo. Non l'hai salvato perché volevi vendicarti, mi sono ripetuto per anni. Poi ho parlato con te e... La voce gli si incrinò. No, non sarebbe mai riuscito a spiegare quello che stava provando. Giovanni si avviò lentamente verso la porta. Prima di uscire gli disse: «Ho visto che hai parecchie bottiglie di birra. È proprio buona. I prossimi giorni verrò a trovarti ancora». Bene, così abbiamo finito anche di leggere il racconto. E prima di chiederle come mai così ha scritto questo racconto, ci ascoltiamo un'altra canzone, che è cantata dai Santo California ed è intitolata Gabbiano. Un giorno da quel treno dissi aspettami, un anno passa presto tornerò, tu con il pianto in gola tu mi scrivi. Silenzio, tutti dormono, ed io dietro i vetri vedo te, con lui che ti stringe forte a sé, sembri sua, io sto morendo. Scusami se puoi, un fiore non può restare per lungo tempo senza acqua. Muore, come la rosa appassita tra le pagine di un libro che non finirò mai di leggere. Scusami se puoi. Io sto morendo. Eccoci di nuovo in studio con il nostro autore, al quale chiediamo un, come dire, un po' di l'antefatto, un po' qual è lo spirito che l'ha animato nella scrittura di questo racconto tanto evocativo di montagna, di magie, di cose di questo tipo. Beh, guardi, il motivo potrebbe sembrare anche un po' banale, no? Ma come dicevo prima, andiamo in, ogni estate in Val di Casies con alcuni amici, e uno di questi è molto bravo a realizzare dei bastoni, no? a scolpirli. Ah, ma esiste proprio? Sì, appunto questo. E vedendolo così incidere i bastoni che stava preparando per noi, per me e mia moglie, mi ho detto, ma è venuta questa idea di il racconto in sé è abbastanza classico, diciamo, è l'eterno, diciamo, chiamiamolo triangolo, no? Questo e accanto al triangolo questa amicizia un po' particolare, no? Fra un'amicizia caratterizzata da odio amore praticamente, no? Fra i due protagonisti, fra Sepp e Peter. E l'italiano, diciamo così, ecco. E poi mi è venuto in mente poi questa figura di questo italiano, che è appunto un villeggiante che trascorre anche lui appunto le vacanze in Val di Casies da diversi anni, e è un buon bevitore di birra, ama andare nei rifugi e appunto ha fatto amicizia con Sepp. No? E alla fine appunto sarà proprio lui che, avendo intuito che qualcosa si nascondeva dietro quelle decorazioni, dietro quel bastone, insomma, appunto avendo intuito un po' la storia, ha, diciamo, alla fine è riuscito a far raccontare l'accaduto a Sepp e anche tutto sommato a liberarlo da quel senso di colpa che Sepp si era creato, perché in realtà Sepp non era responsabile della morte dell'amico, ma si riteneva tale, ma diciamo. si riteneva tale per tutta la storia precedente, no? Esatto. Quindi ha trovato l'amico questa chiave per aprire il forziere per, dei sentimenti per aprire, più riposti. Per liberarlo Esattamente. Insomma, questo l'ho voluto inserirlo in questa cornice un po' rude di montagna, appunto fatto di persone semplici, anche appunto rude, che vivono queste storie forse in modo diverso da come potrebbero essere vissute in altri ambienti. Certo. Mi pare che lo sfondo sia determinante, cioè il fatto della Val Casias, eccetera, i luoghi determinano reazioni, i sentimenti e tutto quanto, li modellano, li plasmano, o sbaglio? Sì, la Val di Casias è una bella valle, ma è anche una valle chiusa, è un po' un mondo a sé, nel quale appunto si possono trovare dei personaggi particolari. Scrigno, diciamo, sì, qualcosa, esatto, di questo tipo. Questo Zeppe che lei ha conosciuto era così un po', diciamo, un po' chiuso, un po'... Quello che lei ha conosciuto, l'intagliatore. Diciamo. No, quello è l'opposto. Ah, sì? è una persona simpaticissima, è un caro amico, è uno psichiatra. Ah. E diciamo che è proprio l'opposto di Zeppa. È una persona che definirei estroverso, generoso. Una bella persona. Mi è piaciuta la figura dell'italiano, di questo Giovanni. Questa figura un po' così, mi è piaciuta molto. E comunque adesso mi pare che ci sia il terzo, no? Sì. Il terzo lo eventualmente... Il segreto di Ingrid. Sì, esatto. Ecco, ma Ingrid è una donna, il nome di una donna, perché il tedesco non lo conosco, eh. Sì, Ingrid è una donna, una ragazza. Ho capito, va bene. Non, non anticipo non, niente, non anticipiamo altro. Niente, no, perché... No. Va bene, oltre a questi tre qui di montagna, ha scritto altri racconti? Sì, ho scritto altri racconti più brevi. Ho scritto anche un apologo su Asolo. Appunto, partecipando a un corso di scrittura creativa, ci danno il tema per casa, il compitino per casa, e uno di questi era appunto salita, discesa. Ecco. E su questo titolo ho costruito un apologo abbastanza divertente, molto, molto breve. Perché... Nel quale non ci saranno nomi tedeschi da leggere. No, non, questi nomi sono, no, ci sono nomi assolutamente italiani. Bene, bene, bene. Ecco, così... Non mi preoccupo, perché altrimenti se ci sono ancora nomi tedeschi è un problema. Bene, e adesso hai intenzione di scrivere altre cose? Sta scrivendo altre cose? Ma io vado un po' a cicli. Adesso sono al momento di un ciclo poetico. Scrive poesie. Adesso, in questo ultimo periodo, ho scritto alcune poesie. E se scrivo poesie... non riesco a scrivere prosa. In prosa, quindi è un'alternanza, sì, diciamo, è un'alternanza. Di arte. Allora Antonio, cosa dici? Dai, prima io della direi canzone. Che prima la canzone, e poi in finale, diciamo, Dolce Sinfulto, un paio di poesie. Allora, esatto. Ascoltiamo Luigi Tenco in Se stasera sono qui. Se stasera sono qui, perché tu hai bisogno di me, anche se non lo sai. Se stasera sono qui, è perché so perdonare e non voglio gettare così il mio amore per te. Per me venire qui è stato come scalare la montagna più alta del mondo, e ora che sono qui voglio dimenticare stasera sono qui. È perché se non lo sai. Stasera sono qui, è perché ti voglio bene, è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo sai. Bene, siamo rientrati in studio con il nostro ospite, il quale parlava prima di poesia. Ecco, la poesia è un distillato di memorie, di sensazioni, di sentimenti. Io vorrei leggerne due del nostro autore. La prima è «I giorni se ne vanno». Il gemito vibrante delle corde lacera l'aria, l'acqua trascina le chiglie, le risospinge contro la sabbia, il legno scricchiola, e uno sguardo attraversa rapido il cielo alla ricerca di una luna migliore. Un rumore sordo insegue una costa immaginata e difficile. Tra amore e disincanto i giorni se ne vanno. Ognuno lascia all'altro solo il tempo di sparire. Bella. Molto bella. Dal titolo mi è sembrata bella. Molto, molto bella. E il poeta... poeta, qui chiaramente non serve nessuna chiosa. Il poeta: scrivo con lena, scrivo senza scampo e senza tempo, scrivo ancora una volta da un esilio, scrivo a un mancato appuntamento, alla verità immanente e a quello che mi sovrasta, scrivo con pura indifferenza ciò che mi aggrada o mi tormenta. Scrivo, spettrale testimone di una oscura reminiscenza. Scrivo del tutto e del nulla che accade, della memoria che allenta i sensi. Scrivo alla vita, infitta nel suo dilemma. Scrivo di casi, tempi. Scrivo e m'acquatto tra pareti e ghigni. Scrivo per un sé esistente che si perde, che sa e non sa, e avanza cautamente. Beh, io ho qui una poesia che forse abbiamo già letto, però mi piace e la rileggo. Spiaggia del nord. Nei lunghi inverni desolati ci spartivamo sorsi di timida luce. Le nuvole si sgranavano, sparpagliate dal vento. Traballava la casa sotto l'ira delle raffiche e sul litorale una schiuma persistente minacciava il nostro rifugio sottile. Poi, d'improvviso, si rovesciavano come una cascata di diamanti le stelle e noi restavamo muti e tremolanti tra le chiome della notte. Ah, io sempre invidio chi sa poetare, francamente, non è una cosa che... Ecco. È come trovare la sintesi di appunto di una vita, di una vicenda, di un sentimento, di qualcosa che è così impalpabile. Comunque, Spiaggia del Nord, perché l'ha intitolata Spiaggia del Nord? Perché a me sono sempre piaciuti quegli ambienti nordici, per esempio certi film anche di Bergman, in cui si vedono quei paesaggi lividi, quella Settimo luce, sigillo, per esempio. Quella luce un po' spettrale, con quei cieli lividi, sì, appunto lividi che inquietano, no? E immagino gli inverni, appunto, li immagino così, no? Questa spiaggia del nord. Però poi mi piace immaginare anche questa cascata di stelle, no? Questo cielo che si apre improvvisamente e questi due amanti, no? che appunto sono delle chiome della notte. Certo, questa varietà di sentimenti che sì. si accavalla praticamente. Sì, tremolanti. Tra odio e amore, sì. eccetera, eccetera. Bene, e adesso che sì, sta scrivendo altre poesie, no? Sì, appunto recentemente ne ho scritte alcune, e con queste credo di aver completato il terzo libro, che spero di pubblicare a breve, qui entro qualche mese. Insomma. E così, diciamo, in un così breve periodo, essere, diciamo, una prolificità straordinaria, racconti, poesie, cioè, perché sono cose che, giustamente diceva prima, l'alternanza, è difficile scrivere poesie, difficile almeno, io lo trovo per me inconcepibile, ma scrivere poesie e scrivere invece prosa, qual è la... diciamo lo sforzo che viene richiesto, qual è la differenza in termini, diciamo, di impegno, ecco. Ma cioè, sono due cose completamente diverse. No? E quindi non possono sovrapporsi. È richiesto un diverso tipo di linguaggio. E soprattutto questo, perché molto spesso capita di leggere delle poesie che in realtà non sono poesie, ma sono prose messe in versi. No? Io invece concepisco la poesia proprio come un linguaggio particolare, a una forma a sé stante, una forma particolare. E quindi sì, non sono un critico né un esperto da poter dire quali siano tutte le differenze tra questi due tipi di scrittura. Sta di fatto, certo, che è così, insomma. Ecco, cioè, è così. Me ne accorgo, però li vivo affrontandoli. Certo. Sì. Allora leggo, che forse l'avrò anche letta un tempo fa, un'ultima poesia. La quiete, che anche questa mi piace molto. Dopo tanta testimonianza di luce e vento, ecco la quiete che dilaga a sfumare le cose e la loro risonanza, nella vampa di questa estate piena. È la beatitudine del nulla, l'ignota presenza del paradiso in una mini storia appena scritta. Il cielo si è ingoiato le nuvole e le nostre urgenze. Il corpo s'abbandona in un pensiero errabondo e mi chiedo fino a che punto io possa ancora sognare, colorare l'attesa, affondare le mani nel cuore del tempo. L'ombra di un volto mi sorvola, mi illumina, si dilegua nella lontana voce del vento. E qui non ci rimane purtroppo altro da fare che... che salutarci, che salutare, ringraziare il nostro ospite, la gentile signora che è stata qui ad ascoltare, e forse ci saprà dire com'è andata. Naturalmente. Caro Giancarlo, ringraziamo per essere stato con noi e alla ancora. Prossima occasione, naturalmente. Beh, grazie a voi per avermi dato questa seconda possibilità di rendere conosciute le mie poesie, le mie opere. Non c'è due senza tre, quindi l'attendiamo una prossima volta. Molto volentieri. Bravo. Grazie di tutto, e ne approfittiamo per salutare i nostri ascoltatori, il nostro coordinatore, il nostro regista, e come sempre tu, Antonio, cosa diciamo dici? Alla prossima volta. Alla prossima volta e ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.